6. F. Ascolta e trasforma. Si è accomodato in poltrona? Si sono accomodati in poltrona. Si è accontentato di poco? Si sono accontentati di poco. Si è ammalato. Si sono ammalati. Si è arrabbiato. Si sono arrabbiati. Si è affrettato a rispondere. Si sono affrettati a rispondere. Si è vestita elegantemente. Si sono vestite elegantemente. Si è sentita male. Si sono sentite male. Si è dimenticata le chiavi. Si sono dimenticate le chiavi. Si è presentata in ritardo. Si sono presentate in ritardo.